perché la visione che abbiamo di noi stessi è totalmente distorta da che cosa? Da quello che la Volpini dice, dall'immagine di Dio. L'immagine che abbiamo di Dio, e che ci è stata interiorizzata, quindi poi di noi stessi, è un'immagine che non c'è speranza. Quindi non vale la pena impegnarsi nelle cose, ma cosa serve? Mi impegno, cosa serve? Tanto rimarrò sempre lì, sarò sempre, capisci? Se sono un topo da fogna, posso diventare un topo da fogna un po' più pulito, ma sono sempre topo da fogna. Ma se sono divino, è possibile che io rinunci alla divinità per delle stronzate tutti i giorni? È possibile? Sì, tu registra, sì. Ecco, invece sì, la Volpini ci dice proprio così, perché, adesso vi leggo due o tre frasi, perché queste sono meravigliose. Ecco qua. Lo leggo ancora. Dunque, vorrei urlare al popolo, al mondo, che le esigenze potrebbero essere soddisfatte. Le esigenze, sapete cosa sono, no? Quelle di essere veramente in relazioni armoniche, cioè essere divini, senza tanto dolore, se non ci si lasciasse continuamente fuorviare dalla paura o dalle lusinghe del potere, cioè dalla paura, quella che si sottomette così, o quella delle lusinghe del potere, quello che si lascia. Ok. Vorrei che questo popolo non tollerasse più le mediazioni, perché queste non hanno mai chiarito, mai aiutato, mai accelerato il processo di consapevolezza, ma l'hanno sempre ritardato, sempre offuscato, sempre confuso. E qui sta usando quantificatore universale. Cioè, non si scherza, eh? Qui va proprio pesante. Perché ha ragione, quando uno si pone come mediatore, per sua definizione, non può aiutare. Ecco, per vivere e scegliere la vita bisogna essere liberi. Non solo interiormente, dove nasce la libertà, ma anche liberi esteriormente per poter portare a compimento la trasformazione della terra attraverso rapporti umani basati sull'amore. E non dice l'amore tra uomo e donna ai fini di procreare. Non è questo. Sta dicendo ai fini di creare un nuovo mondo, dove i bambini finalmente possono nascere e sentirsi accolti nel luogo che desiderano essere accolti e non in una truffa che poi viene perpetuata attraverso la scuola e l'università. Truffa spaventosa. Ecco, basati sull'amore e sullo scambio e integrazione delle capacità, carismi, che ognuno ha da dare all'altro come proprio dono originale necessario all'infinità, cioè a portare a compimento tutti. È ora di cacciare i profanatori dal tempio dell'uomo e rinchiuderli nei loro templi di pietra per impedire che essi parlino in nome di Dio e professino una tirannide verso l'uomo, mantenendo un'immagine di Dio padrone che continua la confusione e impedisce la consapevolezza. Non sono parole equivocabili. Parlare di Dio vuol dire guardare all'uomo, alla sua storia e le sue esigenze, vuol dire svolgere lo sguardo dove è il suo all'oggetto del suo amore, l'uomo. Egli è la felicità dell'uomo. E così via. Siamo chiamati a essere consapevoli, dobbiamo impegnare tutto il tempo per arrivare al della necessità, cioè il tempo quindi della finitezza, per arrivare al tempo della libertà. Siamo chiamati a dare la nostra esperienza come forza che libera, che ricorma ogni altro essere umano. Quindi capite bene che il tempo dei tiepidi è finito. Il dolore dell'uomo a termine quando questi finalmente riesce a superare la sfiducia nel poter essere quello che egli vuole essere. Nella storia e sempre. Okay. E queste parole sono inequivoche. Quindi l'immagine, e quelle corrispondono a quelle di Nelson Mandela. Nelson Mandela perché è un grande? Perché si è liberato dalla tirannide. Quindi ricordiamoci, la paura del potere, dominio, e la lusinga del potere, dominio. Queste due trappole non scappano. Noi insegniamo ai bambini a praticare quella danza. Io non ci credo proprio, non ci credo che i bambini siano come viene descritto dalla civiltà occidentale. Non è così. I bambini vengono creati così dal mondo in cui viviamo, in cui i genitori non si amano. Non esiste l'amore tra loro se non a piccolissimi strati e i bambini sentono tutto, non puoi ingannarli, è possibile. Ecco perché ti fanno da specchio, ecco perché da una parte li ami, dall'altra nell'inconscio li detesti, li odi perché le madri sono così nell'inconscio, c'è poco da fare, la psicanalisi non ha dubbi su questo, quindi ci sono queste due terribili forze, no? E tutti noi abbiamo sperimentato la madre strega. Cioè, la madre che ci ama e che ci fa così, e poi la madre strega. E dentro Aleph questo è finito, è successo infinite volte.